Il percorso con l'aiuto di Dio faremo quest'anno sarà di questo tipo. Allora, faremo oggi una presentazione essenziale e sintetica di quello che è l'Antico Testamento con l'aiuto di queste slides, sperando che si vedano. Poi chiaramente non è possibile leggere tutto l'Antico Testamento, perché capite che è una cosa enorme. Focalizzeremo alcuni aspetti essenziali e quindi cercheremo di seguire più o meno tutto l'iter dell'Antico Testamento, cercando di fare una rassegna per quanto possibile esaustiva, andando poi però a verificare nel dettaglio alcuni passi biblici particolari. Ci sono dei brani o anche degli eventi o delle situazioni che sono assolutamente da conoscere e da sapere. Ecco, quindi per questo dobbiamo fare il possibile per attivarci in merito, e avendo prima un quadro generale e poi, capite, scendendo nei particolari. Per esempio, ci sono alcuni passi salienti. Dovremmo sicuramente fare delle scelte, perché soltanto il Pentateuco, se uno volesse fare, cioè, ci potremmo stare 4 anni sull'Antico Testamento. Non so se è il caso di voi, anche pensateci un po'. Ecco, soprattutto munitevi sempre di Bibbia, perché volta per volta poi vedremo i brani, insomma, da leggere. Adesso andiamo subito in merito, cominciamo quindi con l'Antico Testamento. Allora, nella tradizione ebraica i libri dell'Antico Testamento, vedremo adesso un indice, i libri dell'Antico Testamento nella tradizione ebraica, un po' il percorso che faremo questa sera. Poi, una breve storia di Israele e della salvezza. È fondamentale avere chiare le coordinate storiche fondamentali, perché vedremo che fondamentalmente tutto l'Antico Testamento è una teologia della storia, cioè si vede come Dio interviene e agisce dentro l'intreccio della storia umana, dandole una significazione e un valore salvifico e soprannaturale. Però bisogna avere chiari, diciamo così, le tappe fondamentali. È un po' forse pesantuccio come itinerario, però è imprescindibile, lo capirete poi. Quindi vedremo poi la suddivisione cattolica dei libri dell'Antico Testamento, quindi il Pentateuco, i libri storici, i libri sapienziali, i profeti maggiori e i profeti minori. Come ultima slide c'è anche una rassegna dei testi dell'Antico Testamento, in modo tale che ci abbiamo chiaro un po' tutto l'itinerario della storia della salvezza. Adesso, sperando che si veda qualcosa, i libri nell'Antico Testamento e nell'ebraismo. Nell'Antico Testamento i libri, nell'ebraismo, scusate, i libri dell'Antico Testamento sono divisi in 3 grandi parti: Torah, profeti e altri scritti. In ebraico è Torah, Navim, u Ketuvim. Quindi la Torah, vi ricordate, quando nel Nuovo Testamento anche Gesù parla, quando gli scribi vanno, che c'è scritto nella legge? Ecco, la legge sarebbe la Torah. La Torah coincide con il Pentateuco, poi vedremo che cos'è, cioè con i primi 5 libri della Sacra Scrittura. I profeti, vedremo poi la suddivisione, sono tantissimi i profeti, ci sono 4 profeti maggiori e 12 profeti minori nel profetismo, e poi tutti gli altri scritti, cioè dal libro di Giosuè, tutti i libri storici, tutti i libri sapienziali, i salmi e tutto, vengono raggruppati in questa grande categoria che appunto gli ebrei chiamavano altri scritti. Per quanto riguarda la Torah, quindi profeti e altri scritti. Allora, la Torah, noi abbiamo la Torah appunto distinta nel Pentateuco, ovvero i primi 5 libri della Sacra Scrittura, che sono la Genesi, l'Esodo, il Levitico, i Numeri e il Deuteronomio. La seconda parte, che sono i profeti, lo vedremo subito, che sono appunto 4 profeti maggiori e 12 profeti minori. E poi gli altri scritti, qui trovate nella slide controversie, perché è molto discusso anche nell'ambito delle tradizioni rabbiniche, quanti sono libri ispirati, quanti non sono libri ispirati, perché anche in Israele, così come nei loro fratelli minori, anche se non si può, se si arrabbiano, se uno dice così, che sono gli ebrei, non esiste come da noi un'autorità magisteriale, quindi un punto di riferimento unitario che dice a un certo punto, in caso di controversia, è così e non colà. Per cui, per esempio, nell'Antico Testamento le odi di Salomone, che sono un testo per noi apocrifo, secondo alcuni rabbini è un testo ispirato, quindi lo considerano come facente parte del canone, altri no, quindi c'è tutto un groviglio, insomma. Adesso questa è la prima tavola storica. Tenete presente che si fa riferimento alla datazione che risulta più o meno dalla cronologia biblica, d'accordo? Quindi la colonna di sinistra è più o meno l'anno di riferimento, la colonna centrale è l'evento, la colonna di destra sono i libri o i fatti biblici. Queste slides poi le trasformo in PDF e le metterò, per chi le vuole scaricare, sul sito. Allora, intorno al 5200 avanti Cristo c'è la creazione di Adamo, che sono i capitoli 1-3 del libro della Genesi. Meno male che mi ricordo bene alcune cose. Intorno al 4500 avanti Cristo, non so che è successo con le slides, si situa Noè e il diluvio, intorno al 3000 avanti Cristo, se non ricordo male, si situa Noè con il diluvio universale, 3000-2800 avanti Cristo, quindi parecchio dopo, capitoli 6 seguenti della Genesi. Abramo siamo intorno al 1850 avanti Cristo. E negli anni e nei secoli seguenti, quindi intorno al 1700 fino intorno al 1600, cioè abbiamo il ciclo di Isacco, Giacobbe e Giuseppe. Quindi abbiamo praticamente esaurito con questi libri della Genesi. L'epopea di Mosè, con tutto quanto l'esodo poi del popolo di Israele dalla Terra Santa, si situa dal 1250 in poi. Tenete presente come ha fatto Israele, io non lo so se voi lo sapete, come ha fatto Israele a ritrovarsi schiavo degli egiziani in Egitto? Sapete? Come è successo? Sapete la storia? Non tutti. Giuseppe è stato venduto e si è ritrovato in Egitto, dopodiché una serie di situazioni, i fratelli lo vanno a ritrovare, dopodiché Giacobbe si trasferiscono tutti quanti in Egitto, muore Giacobbe e rimangono in Egitto. Ecco, mentre Giuseppe aveva trovato grazia presso il faraone, di cui era il luogo tenente principale, e con il faraone seguente cominciano i guai per Israele e gradualmente viene ridotto in schiavitù. E si ritrova in una schiavitù lunga circa 500 anni. Circa. Nel 1250 sorge Mosè e comincia il ciclo del libro dell'Esodo. E intorno, diciamo, al 1210, circa 40 anni di peregrinazione nel deserto, Giosuè entra nella Palestina. Chiaramente, per quanto riguarda Mosè, i libri di riferimento sono Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Il Deuteronomio termina proprio con la narrazione della morte di Mosè, avvenuta tradizionalmente sul Monte Nebo. E il libro immediatamente seguente è il libro di Giosuè, che appunto narra la conquista della terra promessa. Giosuè è il successore di Mosè, quindi grande generale, incaricato di condurre il popolo di Israele nella Palestina. Cosa succede quando entra il popolo di Israele nella Palestina? Entrato il popolo di Israele nella Palestina, Dio stesso divide il territorio della Palestina tra le 12 tribù di Israele. Le 12 tribù di Israele sono i 12 discendenti dei 12 figli di Giacobbe, cioè Giacobbe, nipote di Abramo, ha fatto 12 figli. Quando noi diciamo che Gesù era della tribù di Giuda, anche Davide era della tribù di Giuda, Giuda era uno dei 12 figli di Giacobbe, poi rivedremo casomai, così come Issacar, così come Zabulon, così come Neftali. Tenete presente poi che molti territori della Terra Santa hanno preso il nome dai figli di Giacobbe, se voi vedete nel Vangelo, nel territorio di Zabulon, Galilea delle genti, Zabulon si trova a nord, l'estremo nord di Israele, era uno dei 12 figli di Giacobbe. Il territorio di Zabulon era la porzione di territorio toccata ai membri della tribù di Zabulon, si trova all'estremo nord di Israele. Non sono particolari, bisogna avere almeno una infarinatura di queste cose, no? La Terra Santa è stata divisa in 12, non esattamente in 12, in 11, perché i Leviti, Levi era uno dei 12 figli di Giacobbe, Mosè era della tribù di Levi, era la tribù sacerdotale, cioè quelli incaricati di occuparsi del Tempio e del servizio di Dio. Il Tempio ancora non c'era, il Tempio è stato costruito da Salomone. Fino a Salomone, vede, fino al 931, qualche anno prima, Israele non aveva ancora un Tempio. Vedremo, poi se approfondiremo alcuni di questi aspetti, durante l'Esodo Dio dice a Mosè di costruire un tabernacolo, quindi il tabernacolo non era altro che una tenda che fungeva le funzioni di tempio, in cui all'inizio poteva entrare soltanto Mosè, era il luogo della presenza del Signore, ma da tutte quante una serie di norme, ci sono mi pare 14 capitoli del libro dell'Esodo che narrano per filo e per segno come doveva essere costruito questo tabernacolo. Sa di fatto che Dio, Yahweh, tra virgolette, ha peregrinato insieme al suo popolo nelle tende per quasi 300 anni, fino a quando Salomone non costruisce il Tempio. Fin da allora i Leviti si occupavano di questo, per cui nell'ingresso nella terra promessa i Leviti non hanno una porzione di terra, perché la loro porzione è il Signore, e campano con le offerte delle altre 11 tribù dei figli di Israele. Quando poi sarà costruito il Tempio, tutti i Leviti abitavano proprio materialmente nel Tempio di Gerusalemme, sia il primo Tempio, adesso vedremo quello di Salomone, sia il secondo, quello di Esdra e Neemia, sia il terzo, quello di Erode. Allora, entrati nella terra promessa, nel periodo che va circa 200 anni, dal 1200 al 1030, ci sono i libri dei giudici, il regno dei giudici. Avete sentito? Chi erano questi giudici? Allora, all'inizio Israele non aveva una forma politica organizzata, non aveva una monarchia. Perché? Se voi leggete i libri dei giudici, Dio gli dice: sono io il vostro re, non serve che vi fate un re reale. Quando c'è qualche bega o qualche questione, nominate, qua vi susciterò io qualche persona saggia che sbrigherà le vostre controversie e gli affari più gravi. Questi si chiamano giudici. Ci sono alcuni uomini, tipo Gedeone, e alcune donne, tipo Deborah, che svolgono questa funzione. Il leitmotiv, diciamo così, del libro dei giudici è questo. Allora, Israele entra nella terra promessa. Cominciò il popolo di Dio a fare ciò che è male agli occhi del Signore, e Dio li mise in potere, non lo so, degli Ittiri oppure dei Cananei, che cominciarono ad opprimere il popolo di Israele. Israele alzò alte grida al Signore ed egli suscitò un giudice, non so, Gedeone oppure Sansone, anche era un giudice, muore Sansone con tutti i filistei, per liberare Israele dalle mani dei nemici. C'è questo proprio cliché, diciamo così, che si ripete in continuazione. Quindi già subito, appena entrato nella terra promessa, come del resto aveva già anche fatto durante l'Esodo e durante i 40 anni di deserto, stanno sempre a lamentarsi, stanno sempre a non sta mai bene niente, appena il Padre Eterno gira l'occhio cominciano a rifare tutto quello che tutti i guai, e Dio gli manda altri guai, quindi cosiddetti castighi, diffidate di chi non... Tutto l'Antico Testamento è un castigo continuo, che però poi nel Nuovo non è che viene smentita questa cosa, come poi, se Dio ci aiuta, vedremo, no? E appena cominciano a piangere un po', fanno le lacrime del coccodrillo, siamo stati cattivi, Signore salvaci, e Dio misericordiosamente suscita qualcuno, lo salva, fanno 3 anni di vita buona e poi ricominciano, è tutto così il libro dei giudici. Vi ripeto, non avremo tempo di leggerli tutti quanti i libri, però ecco, se poi volete andarvi a divertire un po', a dare una controllata. A un certo punto sorge Samuele. Samuele è tradizionalmente il primo profeta. Ora, il profetismo, diciamo che la prima fase di vita di Israele nella terra promessa è una fase, come dire, carismatica, cioè i giudici, come faceva? Lo spirito di Dio scendeva su uno e cominciava a fare il giudice. Stessa cosa accadeva per i profeti, non è che c'erano dei profeti ogni tanto qualcuno aveva dei doni soprannaturali e cominciava a profetare. Erano fenomeni transitori, transionti, non c'era ancora, come dire, una persona tipo Isaia o Ezechiele chiamato da Dio e che spende tutta la vita a svolgere il ministero profetico. Il primo a cui capita questo è Samuele. Vi ricordate la storia di Samuele che stava in servizio al Tempio, non ancora al Tempio, ma presso, insomma, la casa di Dio, la casa mobile, ancora non presso il sacerdote Eli, vi ricordate, questo si legge anche durante qualche messa, no? Samuele dice, Dio lo chiama, e Samuele va da Eli e dice, il Signore mi ha chiamato, il Signore mi ha chiamato, il Signore mi ha chiamato, alla fine parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Ecco. Durante il ministero di Samuele, gli israeliti si inventano l'ultima, si cominciano a impuntare e dicono, se noi dobbiamo essere come tutti gli altri, vedete la mania di essere come tutti gli altri, ci dobbiamo distinguere, tutti hanno un re e noi niente, vogliamo un re. Samuele comincia a dirgli, è meglio di no, perché poi questo re vi manderà in guerra, vi farà passare, se dopo dovrete obbedirgli e se dopo s'ammattisce vi dovrete subire le angherie del re. No, vogliamo il re. A un certo punto, questo sarebbe un episodio da leggere perché è significativo, Dio gli dice, lasciali perdere, fa quello che ti dicono, perché loro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me. E infatti il primo re di Israele è un fenomeno strepitoso, Saul. Saul comincia discretamente, ma poi appena arriva Davide comincia a farsi rodere dalla gelosia di Davide e fa una serie di peccati terribili, e Saul viene proprio rigettato irrevocabilmente da Dio, proprio rifiutato, Saul è una delle immagini. Ci ho fatto un corso di esercizi spirituali abbastanza inquietanti, perché Saul è l'immagine della riprovazione, della fine che fanno coloro che usano male i doni di Dio. A un certo punto Dio dice basta, senza appello, ne ha fatta una grande, qui attenzione, lo leggeremo, speriamo, questo episodio, sulla disobbedienza. Dio gli aveva detto non fare una cosa, lui non è che l'ha fatta, l'ha fatta un pochino, non è che l'ho fatta, un pochetto, per quello è stato stroncato vita naturale durante Saul. Dio stesso dice a Samuele, vai a ungere il mio eletto, e viene unto Davide, che era l'ottavo figlio di Jesse, tanto è vero che si pensava che erano, questo è famoso, non c'è bisogno di andare a leggere, insomma, che unge primi sette, dice questo, non guardare all'apparenza, nella statura, io guardo il cuore. Alla fine c'erano tutti e sette figli, nessuno era il re di Israele. Dice, ma come ha fatto venire a fare qua? Dice, non c'è sta nessun altro, ma c'è sta quell'ultimo che è un giovincello che sta pascolando le pecore, chiamalo, ecco. Era lui il re di Israele. Davide regnerà per 40 anni, l'età aurea, diciamo così, di Israele, anche se pure lui ha combinato un sacco di guai. Davide è l'emblema nella Sacra Scrittura del peccatore umile, però, perché Davide trova grazia agli occhi di Dio, perché vedremo, speriamo, qualche cosa ne combina, noi diciamo quanto è Carlo in Francia, ma è l'immagine dell'umiltà e dello spirito di penitenza, è un'ottima scuola, ecco, per capire come ci si comporta quando, tenete presente che i salmi, quasi tutti quanti i salmi sono stati scritti da Davide, la stragrande maggioranza, e il salmo 50, famosissimo, il salmo penitenziale, fu scritto dopo il delitto terribile che lui fece duplice, l'adulterio con Bezzabea e l'assassinio a tradimento, tra l'altro, del marito di Bezzabea per coprire il suo adulterio. Quando Nathan gli andò a dire che per quello che aveva fatto avrebbe perso il figlio di Bezzabea che era rimasta incinta, gli sarebbero state rubate tutte le sue mogli e la spada non si sarebbe mai allontanata dalla sua casa, ha scritto il Salmo 50 in quella circostanza. Salomone, successo figlio grandissimo, è l'immagine dell'uomo sapiente, che però poi a un certo punto diventa imprudente, perché Salomone ha fatto una brutta fine. È immagine per gli uomini che si fanno, come dire, non voglio usare espressioni, si fanno buggerare dalle donne. Non era il primo caso, perché già ai tempi dei giudici Salomone Sapete la storia di sono Sansone, sapete tutti quanti, ci hanno fatto 3.000 film di Sansone e Dalila. Sansone aveva il segreto della sua forza nelle sette trecce, non doveva dirlo a nessuno, lo dice a quella infida essere, quella gli taglia le trecce e Sansone gli cavano gli occhi, gli fanno così, i filistei gli fanno fare il giullare, dopodiché lui per l'ultima volta fa una preghiera e dice: guarda, per l'ultima volta signore dammi la forza. Stava nel palazzo dei filistei e con la forza in mano che ci aveva, Dio esaudisce la preghiera, gli restituisce la forza, fa cascare le colonne portanti di quella casa e muore lui con tutti i filistei. Per questo si dice: muore Sansone con tutti i filistei. Sapevate queste cose? Sì. Allora, che succede? Durante Salomone, castigo di Dio per l'impietà di Salomone. Castigo di Dio, alla morte di Salomone il regno viene diviso in due. O tenete presente che il ciclo di Samuele, di Davide, di Salomone, abbiamo i due libri di Samuele, i due libri dei re e i due libri delle cronache, i cosiddetti, cominciano i libri storici. Morto Salomone, il regno, quindi la Palestina era ancora uno stato unitario, quindi c'erano i territori appartenenti alle 11 tribù e un unico regno. Però vi ricordate nel Nuovo Testamento che si parla sempre dei giudei, dei giudei, dei giudei? Chi sono questi giudei? I giudei erano gli abitanti del territorio di Giuda, uno dei 12 figli di Giacobbe, in cui c'era Gerusalemme. Allora, che succede? Che sotto Salomone, non so, subito dopo Salomone, il regno di Israele litigano, si divide in due. Il regno del nord, lì c'è scritto Is, regno di Israele, e il regno del sud, con capitale Giuda. Capito? Quindi si divide in due. Il nord sono due stati divisi, ognuno con un re proprio. Il regno di Israele a nord e il regno di Giuda. È il periodo in cui profetizza il grande Elia. Acab, nemico di Elia, il marito di Jezabele, la donnaccia, un'altra donnaccia, empia, eccetera, eccetera, era il re di Israele, del regno del nord. Elia profetizza la futura distruzione del regno di Israele se non si convertono, e nel 722 arrivano gli Assiri. Vi ricordate Sennacherib e Assardon? Vi ricordate la storia? Niente. La potenza assira invade Israele e pone fine al regno del nord, li distrugge, li annette e li schiavizza. Anno 722 avanti Cristo. Sopravvive Israele nel regno del sud, quindi nel regno di Giuda. È il tempo in cui profetizzano a ridosso del 586, è il tempo in cui profetizza Geremia. I guai che ha passato Dio solo lo sa. Altri re stupidi, questo tutti quanti il peccato originale di Israele che voleva il re. Era il tempo dei babilonesi, che erano terribili, peggio degli assiri, che fanno fuori gli assiri e cominciano a monopolizzare l'intero Medio Oriente con il celebre imperatore, il celebre re babilonese Nabucodonosor, succeduto poi da Nabopolassar. Nabucodonosor se ne parla nella Sacra Scrittura in tantissimi posti, anche nel libro del profeta Daniele. Geremia dice a Ezechia: non fare lo scontro frontale con questo e non ti alleare con i nemici di Israele per combattere contro questo, altrimenti, dice il Signore, Gerusalemme sarà rasa al suolo e tu te ne andrai deportato in Babilonia. Lui dice sì, e fa esattamente il contrario di quello che Geremia gli ha detto. Gerusalemme viene rasa al suolo, il tempio edificato sotto Salomone prima che morisse, poco prima che morisse, viene distrutto. Ezechia viene portato in Babilonia, gli ammazzano tutti i figli e la moglie davanti ai suoi occhi, poi gli cavano gli occhi e lì rimane. Ok? Ecco. E durante i 50 anni sono tutti quanti i salmi giunti sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion, non so chi di voi recita la liturgia delle ore. È questo, è l'esilio, perché sono stati deportati in massa gli ebrei. La prima deportazione non è una cosa nuova, quindi l'esilio e le deportazioni, gli ebrei è una cosa antica questa qui. Sono stati 50 anni in esilio presso Babilonia. Passiamo alla seconda tavola. perché l'esilio finisce quando sorge, per chi va a messa tutti i giorni, c'è stata la lettura qualche giorno fa, anzi domenica scorsa durante la messa, non ne ho parlato perché c'era da dare a Cesare quello che è di Cesare, Ciro, il primo re di Persia, quindi Ciro, poi succeduto a un altro grandissimo e famoso personaggio che era Dario, a un certo punto, e la Sacra Scrittura dice che è Dio che gli suscita il cuore, nel frattempo era sorto il regno dei Persiani che avevano distrutto i Babilonesi, e Ciro ha un atto di clemenza e dice: tornate a casa. Sono i libri di Esdra e di Neemia. Tornano a casa nel 539, gli israeliti ritrovano chiaramente Gerusalemme in macerie, si mettono al lavoro, gli stanno i libri di Esdra e di Neemia e di Ageo anche, dice: vi sembra questo il momento di stare tranquilli mentre la casa di Dio è in rovina? Su, al lavoro, che bisogna ricostruire il Tempio. Si mettono a ricostruire il Tempio, che poi ridedicano, quindi il numero 2, nel 515 avanti Cristo. Periodo relativamente, ma non troppo, insomma, tranquillo, e poi arriva il grande Alessandro Magno. Sapete chi era il precettore di Alessandro Magno? Il filosofo Aristotele, il grande Aristotele. Alessandro Magno è stato, si chiama Magno, sono poi quelli, perché è stato uno dei più grandi condottieri militari di tutti i tempi. È morto giovanissimo, non c'aveva, c'aveva neanche 30 anni e aveva praticamente soggiogato mezzo mondo, d'accordo? Addirittura riuscì a fronteggiare i romani, Alessandro Magno, insomma, quindi il che, ecco. Allora, che succede? Praticamente conquista il mondo e chiaramente Israele comincia il periodo ellenistico, così si chiama. Israele soggetta i greci, per questo che poi avete visto anche il Nuovo Testamento, i greci, che tappa tutti quei greci, quando si sente parlare dei proseliti. I proseliti chi erano? Erano dei greci di origine che, stando in Israele, avevano chiesto di diventare ebrei, quindi erano greci convertiti, d'accordo? E qui abbiamo i libri dei Maccabei, perché a un certo punto i greci si mettono in testa di fare quello che stanno facendo le nostre autorità politiche adesso, solo che mentre lì hanno fatto la rivolta ai Maccabei, cioè Mattatia il grande e Giuda Maccabeo il grandissimo, che hanno fatto la rivoluzione, noi invece beviamo come tordi, perché praticamente volevano paganizzare Israele. Quindi cancellare tutte le leggi di Israele e introdurre tutti quanti gli usi e i costumi pagani. Quindi si legge nei libri di Maccabei le palestre, il ginnasio, le terme, e gli ebrei osservanti si strappavano le vesti e mai. Ecco, è il periodo in cui uno dei successori, perché sapete, Alessandro Magno, vado un pochino rapido, divide poi il regno tra i suoi quattro figli, e poi da questi quattro figli cominciano le quattro dinastie che si sono spartite tutto l'immenso impero di Alessandro Magno, e si arriva a questo matto che era uno dei successori, che era Antioco Epifane, che profana il Tempio, che a un certo punto fa un atto di forza, va nel Tempio, lo saccheggia, lo profana e lo mette lì, succede l'ira di Dio, che Mattatia, Giudia e Giuda Maccabeo e i loro successori scatenano l'inferno, d'accordo? Ecco, i libri, fatti biblici che raccontano di questi sono i libri di Maccabei, il profeta Daniele. A questo punto il Tempio viene profanato, e dopo che c'è la rivolta maccabaica riescono a rientrare nel Tempio e ridedicano, lo riconsacrano, non era stato distrutto ma era stato profanato, quindi viene ridedicato, ed è il momento in cui viene istituita l'ultima festività ebraica, che è la festa delle luci, che si celebrava il 25 di Casleu, cioè il 25 dicembre, il giorno in cui è nato Gesù. Il Tempio ridedicato dopo la profanazione. Vabbè. Nel 63 avanti Cristo, vedete, 333, Pompeo Magno occupa Gerusalemme. Nel frattempo i romani erano diventati una potenza assolutamente invincibile e si stavano mangiando il mondo intero. Arrivano in Palestina nel 63 avanti Cristo, e dal 62 al 135 c'è la dominazione romana. ed è il tempo chiaramente di Gesù e degli Apostoli. Dal 37 al 4 avanti Cristo c'è il regno di Erode il Grande. Attenzione, perché il regno di Erode il Grande? Che regno c'aveva? Il regno, allora praticamente durante tutti quanti questi periodi i re non è che non c'erano, c'erano, ma erano re soltanto di nome. I romani, che erano sempre molto intelligenti, per lasciare perdere, insomma, e per lasciare in qualche modo tranquille le popolazioni, dice che sai, il re gli aveva dato, ricordate, il tetrarca Erode gli aveva dato un territorio chiamato appunto tetrarchia, dove poteva svolgere alcune funzioni molto limitate, non chiaramente quelle primarie che erano riservate all'autorità di Roma, e così era lì, faceva il re tutto, con tutta la corte, con tutte le cose, pure se non contava niente, contava, cioè, insomma, ben poco da un punto di vista concreto. I romani erano soliti fare questo. E con la dominazione romana il Tempio aveva subito ulteriori danneggiamenti, quindi Erode fa, diciamo, più che fa ricostruire, fa fare dei grandi lavori di restauro del secondo Tempio, per cui l'ultimo Tempio, quello in cui è stato Gesù anche, è il Tempio di Erode, quindi quello col portico di Salomone di cui parla il Vangelo di Giovanni, eccetera, così come lo descrivono i Vangeli, è il Tempio di Erode. Terminato il ciclo di Gesù nel 70 d.C., così finiamo la storia, Tito, il generale, non era ancora imperatore, distrugge Gerusalemme e distrugge per la terza volta, radendolo al suolo, e stavolta per sempre, perché c'era la profezia di Gesù, questo tempio sarà distrutto, non resterà pietra su pietra e non sarà più riedificato, eh? Gli ebrei se lo scordano, poverini, il tempio, fine, chiuso, finito, non lo vedranno mai più. Per quanti pianti possano fare il muro del pianto, non lo vedranno mai più. E Gerusalemme è rasa al suolo. Poi nel 135 l'imperatore Adriano, sulle macerie di Gerusalemme, il massimo, vedete, della umiliazione, edifica una nuova città pagana, Elia Capitolina. Quindi le promesse di Gesù, pietra su pietra, si sono tutte quante puntualmente realizzate. Questo è per quanto riguarda Israele e un po' di storia sacra. Adesso vediamo cos'è la Bibbia per noi cattolici. Allora, abbiamo un canone, quindi nell'insieme, nella totalità della Bibbia, noi troviamo 73, però 73 perché praticamente i libri originariamente erano 72, perché hanno scisso il libro delle Lamentazioni dal profeta Geremia, che una volta formavano un tutt'uno. Se voi studiate un pochino di storia, per esempio, la prima grande traduzione della Bibbia è stata la traduzione dei 70, così si chiamano, no? Ecco, e anche i 72 libri erano un numero molto importante perché era un numero simbolico. Quanti sono i discepoli che Gesù manda nel Vangelo di Luca? Sono 72, e 72 era il numero delle città pagane ai tempi di Gesù, quindi... I moderni che hanno sempre la cosa, questo l'ha scritto questo, quest'altro, insomma, oggi sono considerati 73, tradizionalmente erano 72, distinti in Antico Testamento, 46, una volta erano 45, e il Nuovo Testamento, ho messo le sigle a TNT, che sono 27. Per quanto riguarda l'Antico Testamento consta di questa suddivisione: abbiamo il Pentateuco, ricordate i primi cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, libri storici che vanno dal Giosuè fino al secondo Maccabei, i libri sapienziali che per esempio hanno i Salmi, il Siraci, dopo li vedremo nel dettaglio, la Sapienza eccetera eccetera, e 18 libri profetici. Nel Nuovo Testamento troviamo i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, le lettere di San Paolo, le lettere cattoliche e l'Apocalisse. Ok? Le lettere cattoliche comprendono anche quelle di Giovanni, per cui la suddivisione con cui ho fatto l'ultima slide suddivide, diciamo, separa le lettere cattoliche di Pietro, Giacomo e Giuda da quelle di Giovanni, che formano un tutt'uno con l'Apocalisse, il cosiddetto Corpus Ioanneum. Ora, per quanto riguarda l'Antico Testamento, andiamo a vedere. Il Pentateuco, abbiamo, questo l'abbiamo già visto, i libri della Genesi, dell'Esodo, del Levitico, dei Numeri e del Deuteronomio. L'autore è Mosè, secondo la tradizione e secondo il Concilio di Trento. Se mi sentissero nelle università cattoliche oggi mi avrebbero già scomunicato, perché hanno fatto tanti di quegli scervellamenti per cui non si sa chi ha scritto il Pentateuco oggi, perché ci sarebbe una conzaglia di un numero imprecisato di tradizioni orali, eccetera, eccetera. Quindi comunque il dato della tradizione è individua come autore del Pentateuco Mosè. Se volete stare con la tradizione pensate che è Mosè, se volete stare con i moderni pensate che sono 157.000 esegeti, e io mi sono già fatto una testa tanta, dovuto studiarle per forza queste cose, ve le risparmio in toto perché c'è stata perdere la fede anziché trovarla, quindi ecco, quella è l'immaginetta con Mosè, e quindi il Pentateuco va dalla creazione alla morte di Mosè. I libri storici sono i seguenti, da Giosuè fino al secondo Maccabei, quindi passando anche per i libretti di Ruth, che è considerato un libro storico, di Tobia, di Giuditta e di Ester. Per quanto, perdonatemi se devo fare qualche polemica, adesso praticamente se voi andaste a studiare l'Antico Testamento per perdere la fede in qualche posto, dicono che Ruth, Tobia, Giuditta e Ester, nessuno di questi è esistita, sono favolette raccontate a scopo parenetico, ma che non hanno nessun fondamento nei fatti storici realmente accaduti. Fortuna che sono libri storici, no? Io non capisco il senso di queste operazioni, quando invece il fondamento storico è assolutamente essenziale, perché è proprio l'intenzione della Sacra Pagina è di far capire che Dio, che è colui che è eterno, come dire, entra nella storia dell'uomo, agisce nella storia dell'uomo, si interseca attraverso i suoi disegni e la sua divina provvidenza con la storia dell'uomo fatta molte volte di miserie e di lontananze con lui, tutte tante le volte in qualche modo si mitizza o si sradica un legame storico, si fa un pessimo servizio alla rivelazione. Comunque, vabbè. Gli autori chiaramente sono vari, perché sono sono libri che abbracciano l'arco storico temporale che va dalla conquista della terra promessa alla vittoria di Giuda Maccabeo su Nicanore, il momento in cui vincono contro gli ellenisti e riprendono possesso del tempio, d'accordo? Poi abbiamo i libri sapienziali e i libri profetici. I libri sapienziali sono i seguenti: Giobbe, Salmi, Proverbi, Coelet, Cantico dei Cantici, Sapienza e Sirace. Sono stupendi quelli. Diciamo che i libri sapienziali sono quelli che si possono leggere con una certa facilità, tranne il Cantico dei Cantici, che è un poema allegorico e che è uno dei libri più misteriosi che esiste in assoluto. Gli altri sono di abbastanza facile lettura, abbastanza accessibili, molto adatti per chi fa l'orazione mentale, anche per l'orazione mentale, specialmente alcuni, e sono veramente da meditare, alcuni davvero rigo per rigo, specialmente il libro del Siracide. Il libro del Siracide è scritto a sentenze, quindi tipo i nostri proverbi, insomma, no? I nostri proverbi sconclusionati, perché un rigo ne trovi uno, al secondo ne trovi un altro, non c'è a che fare con niente di quello, quindi per meditare il Siracide penso che ci vorrebbe una vita intera, insomma, per meditarlo bene e con attenzione. Gli autori sono vari, Giobbe, anche se dicono che non è esistito, per quanto riguarda il libro di Giobbe, vi do queste informazioni tanto per rendervi conto, Davide e qualche altro autore, proprio prevalentemente Davide per quanto riguarda i Salmi, Salomone. Sono sempre dati della tradizione questi qua, quindi per quanto riguarda il libro dei Proverbi, del Coelet, del Cantico e della Sapienza, quasi nessun autore oggi moderno accetta che Salomone abbia scritto il libro della Sapienza, perché lo collocano addirittura nel 200-300 avanti Cristo, e ben Sira per quanto riguarda il Siracide. Poi abbiamo i libri profetici, che sono distinti, vedete, nei quattro profeti maggiori, che in realtà sono quattro i profeti maggiori, che sono Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. Solo che Baruch, che era il segretario di Geremia, vedete tutte quante queste cose qua, praticamente anticamente Geremia e Lamentazioni formavano un corpus unico, d'accordo? E Baruch non era considerato un vero e proprio profeta, perché era un po' una sorta di segretario di Geremia. Comunque i profeti maggiori sono quattro cosiddetti, e sono maggiori anche perché hanno scritto parecchio, insomma Isaia ha 66 capitoli, anche se Isaia i soggetti moderni l'hanno diviso in tre, il proto Isaia, il deutero Isaia e il trito Isaia, non si sa chi siano questi qua, quando hanno scritto hanno posato, c'è stata una barzelletta, perché c'era un cardinale, non vi dico il nome, uno dei grandi autori del Concilio Vaticano II, che tra le poche cose buone che aveva fatto era convinto che Isaia fosse uno, e stava sempre prendeva in giro gli esegeti, dice: quando andrete in paradiso troverete San Pietro che dietro la porta vi fa conoscere. Io sono il profeta Isaia, sono uno, d'accordo? Non sono tre. Ecco. Va bene, ma queste sono cose che appartengono ormai all'antichità. Ecco. E i 12 profeti minori sono tanti, da Osea fino a Malachia, che è l'ultimo profeta. Quindi Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria e Malachia. Siamo? Ecco. Stiamo verso la conclusione, invece nel Nuovo Testamento, vi ricordate, 27 libri, questo è un pochino più facile, andiamo un po' più spediti, abbiamo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, i cui autori sono Matteo, Marco, che però tra parentesi c'è Pietro perché dietro Marco c'è Pietro, Luca, tra parentesi c'è Paolo perché dietro Luca c'è San Paolo, e Giovanni. Ecco, poi le lettere paoline. Ecco, io ci ho escluso anche la lettera agli ebrei, quasi nessuno oggi afferma che San Paolo sia l'autore della lettera agli ebrei, tanto è vero che anche in chiesa vedete che quando si legge la lettera agli ebrei non si dice più della lettera di San Paolo l'apostolo agli ebrei, ma si dice della lettera agli ebrei. Non si sa chi l'ha scritta, c'è chi dice che l'ha scritta Apollo, c'è chi dice che l'ha scritta, non so, Giovanni Mardi, di tutto. La tradizione dice che l'ha scritta San Paolo. Secondo me l'ha scritta San Paolo, comunque se non l'ha scritta San Paolo, comunque fa parte tradizionalmente del cosiddetto Corpus Paulinum. L'autore chiaramente è San Paolo Apostolo. D'accordo? Poi abbiamo, sempre nel Nuovo Testamento, il Corpus Ioanneum, che è composto dalle tre lettere di Giovanni, ne ha scritte tre, e dal libro dell'Apocalisse, il cui autore è San Giovanni, apostolo ed evangelista. E poi abbiamo le lettere cattoliche, che è la lettera di Giacomo. Questo Giacomo è Giacomo il minore, chiamato nella Sacra Scrittura il fratello del Signore, perché Giacomo e Giuda, per chi non lo sapesse, erano quelli che i Vangeli chiamano i fratelli del Signore, due dei quattro, ma non erano i fratelli, erano i cugini carnali, erano i figli di Alfeo, Alfeo era il fratello di San Giuseppe. Giuda era uno proprio ruspante, proprio di quelli, proprio un po' tipo Don Leonardo, però in meglio. Invece Giacomo era uno tranquillo, aveva un carattere mite, e tant'è vero che Gesù ci ha lasciato come vescovo di Gerusalemme Giacomo, perché quelli ruspanti non possono fare i vescovi, fanno i panzer, fanno i predicatori, già troppo che fanno i parroci. ma manco quello andrebbe tanto bene. E poi ci stanno le prime due lettere di Pietro. Ecco, le due lettere di Pietro, che è San Pietro, apostolo, no? Gli autori sono San Giacomo, San Pietro e San Giuda. Il San Giuda, il cugino del Signore, è chiamato anche San Giuda Taddeo. Questo è San Giacomo, questo è San Pietro e questa, vedete, San Giuda è rappresentato generalmente con l'ascia perché è stato ucciso a Accettate. Così è. Ecco, questo per quanto riguarda l'introduzione, che penso che possa bastare.